Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, ve lo dico sinceramente, non so se la notizia di oggi mi susciti più curiosità o più preoccupazione. La preoccupazione per i malati di calcio, quelli che non possono fare a meno di vedere e rivedere la moviola, impazziscono per le statistiche e vogliono sapere tutto di tattica e condizioni fisiche dei giocatori. Lo dico perché stasera parliamo di parastinchi, di un tipo che manderanno invisibili oppure al manicomio, secondo dei casi, i fanatici del pallone. Intanto diamo il benvenuto ad Alessandro Di Felice, fondatore e amministratore delegato di SpaceX. Buonasera. Buonasera. SpaceX, si pronuncia così, SpaceX, giusto? SpaceX. Ecco, diciamo l'accento un po' diverso, ma ci SpaceX. Siamo. Allora, parastinchi sensorizzati, parliamo di questo, che sensori contengono e quindi che cosa possono misurare? Sì, diciamo, intanto il sensore principale è il GPS. Quindi geolocalizziamo esattamente la posizione di ognuna delle due gambe, diciamo, del giocatore. Esattamente, okay. Georeferenziata rispetto al campo di gioco. Oltre a questo sensore ci sarà un sistema di telecomunicazione che permetterà quindi di mandare, di inviare il dato registrato a bordo campo, dove c'è una centralina che prende tutti i dati, tutti i giocatori che stanno in campo e li visualizza su un unico display, riproponendo graficamente quindi tutta la posizione in campo dei vari giocatori. D'accordo, quindi e naturalmente già qua cominciamo a intravedere le prime applicazioni. Poi non so se lì dentro, so che ci volete mettere degli altri sensori, ce li avete messi, dovete ancora cominciare a usarli, siete appunto una startup. Da quanto tempo attivi? 2013, inizio 2013. Ok, molto, quindi, molto recente. Esatto, all'inizio abbiamo basato tutto sul GPS, poi abbiamo già inserito un accelerometro e quindi è integrato, che ci potrà dare anche altre informazioni utili, e vorremmo metterci anche dei sensori tipo biometrico, ad esempio un ricevitore per il battito cardiaco. Perfetto, ecco, che cosa possiamo fare con tutti questi dati? Facci un po' di esempi. Come dicevi te, giustamente possiamo fare impazzire i tifosi, quindi da un lato, abilitiamo una serie di applicazioni tipo TAT, quindi cerchiamo di capire ad esempio la distanza tra le parti, la media di distanza tra le parti, oppure quanto la squadra è corta o quanto la squadra è stretta. Poi ovviamente tutte le misurazioni tipo invece più fisico, prestazionale, cioè quanto ha corso, quanto di fatti li sappiamo già dalle telecamere, però la velocità che hanno avuto in campo, certo, potenza, accelerazione, potenza metabolica ad esempio, sono tutti parametri che in qualche modo indicano anche un po' uno stato di fatica del giocatore, rispetto, quindi come se fosse una specie di batteria virtuale. In più con l'accelerometro possiamo iniziare a misurare dati nuovi come ad esempio la potenza di tiro, quanto ha calciato forte, oppure gli urti che ha ricevuto il calciatore, o con quale potenza è saltato di testa. Ecco, adesso io non so se questo appunto scatenerà infinite diatribe, ma in teoria se voi avete la posizione di due parastinchi e registrate con gli accelerometri il momento del contatto, dovreste anche essere in grado di risolvere i falli incerti, anche se c'è da star male solo a pensarci, ecco. C'è da star male a pensarci, sì, effettivamente, però se uno si è tuffato, no? Diciamo come a questo punto dice vedere, tira il fiato. Esatto. Allora proviamo a uscire un attimo da questo mondo un po' insano, come dicevo, e parliamo di un'altra applicazione. Ecco, voi avete sviluppato questo oggetto, ma sviluppate altri oggetti che hanno qualcosa in comune naturalmente, ma per applicazioni completamente diverse. Sì, esattamente, il nostro core business sicuramente ruota intorno alla navigazione satellitare, quindi quando c'è bisogno di utilizzare degli oggetti che siano particolarmente accurati oppure autentica, la cui posizione necessiti di essere autenticata e quindi abilitante per le nuove applicazioni, ovviamente cerchiamo di portare avanti le nostre soluzioni tecnologiche. Ecco, perché spieghiamo che il GPS di per sé è un segnale che ha un errore significativo per alcune applicazioni, decisamente troppo, no? Sì, in media 8 metri, ma ci sono delle condizioni come ad esempio quelle urbane in cui soffre di un effetto che si chiama multipath, per cui addirittura può ad esempio far risultare che sta sulla via parallela rispetto, certo, a... Certo, una cosa che conosciamo bene, dovuto al fatto che i segnali dei satelliti subiscono un sacco di riflessioni sulle facciate dei palazzi, eccetera, eccetera, e incasinano, diciamo così, per usare un termine tecnico, il navigatore. Ecco, esempi quindi di queste applicazioni che richiedono grande precisione, oltre al parastinco di cui abbiamo parlato prima? Beh, quella più interessante è quella che stiamo facendo con il Comune di Roma. Si tratta quindi di una sperimentazione per cui si sta pensando di avere una ZTL che è dinamica, quindi non più varchi attivi a certe posizioni, ma varchi dinamici, quindi accesso dinamico. La possibilità di crearne ad hoc magari per 3 giorni, no? In un punto, sì, in cui c'è bisogno. Esatto, una manifestazione a San Giovanni, faccio un esempio, piuttosto che un concerto o altri effetti, anche una buca su una strada, per intenderci. So. Ecco, e naturalmente, siccome a varcare una ZTL che non si dovrebbe varcare si prende una multa, lì la precisione, la certezza che la ZTL fosse ben posizionata è d'obbligo. Esattamente, esattamente. Noi diciamo raggiungiamo più o meno in dinamico, quindi in questa fase qua, un'accuratezza intorno ai 40 centimetri. Ma forse ancora più importante, oltre all'accuratezza che è molto spinta e molto elevata, e anche la possibilità, non dico di certificare il dato, ma quantomeno di autenticarlo, cioè essere certi che quella posizione è stata una posizione determinata da satellite. Va bene, grazie Alessandro Di Felice, buon lavoro. Grazie mille anche a voi. Vi segnalo che questa settimana incontreremo SpaceX e all'Expo al padiglione Samsung nel corso dei 5 appuntamenti organizzati da Team ed Ericsson in collaborazione con Radio 24 sul tema delle città intelligenti. A voi tutti appuntamento, a domani.